Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati, sono le 12:15, un nuovo appuntamento con Salva Danaio, oggi venerdì 16 marzo, oggi parliamo di libretti al portatore perché il 31 marzo sarà una data molto importante per questo tipo di strumento, cambiano in sostanza le regole del gioco e noi ci faremo spiegare tutto dai nostri ospiti, come al solito. Autorevoli illustri, allora comincio da Massimiliano Anastasi, che è il responsabile funzione antiriciclaggio nell'ambito di Banco Posta Compliance, che per noi comuni mortali vuol dire controllo della conformità. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi. E saluto Nicola Forte, consulente tributario a Roma ed esperto per il Sole 24 Ore. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno ancora a tutti i radioascoltatori. Vi ricordo i numeri attraverso i quali potete contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349 238 6666 per i vostri sms. Velocemente andiamo a vedere che cosa sta succedendo sui mercati, prima di tutto nell'ambito dei titoli di Stato, differenziale tra BTP e Bund a 10 anni 280 punti base, quindi da stamattina c'è una progressiva discesa, eravamo partiti da 291 in apertura, 289 era stata la chiusura di ieri, in questo momento 280, qualche istante fa eravamo a 279. Per quel che riguarda invece i listini, lo dicevamo anche nel corso dei GR, oggi c'è una sostanziale attesa per quel che riguarda i mercati. Parigi in questo momento guadagna uno 0,27%, Francoforte lo 0,38%. Londra guadagna lo 0,33%, più debole Milano, dove il FTSE MIB guadagna uno 0,05%, il FTSE All Share lo 0,09%. Ricordiamo che dal primo pomeriggio arriveranno dagli Stati Uniti dati macroeconomici molto importanti, alle 13:30 il dato relativo ai prezzi al consumo, alle 14:15 la produzione industriale e poi poco prima delle 15 la fiducia dei consumatori dell'Università del Michigan, quindi è molto probabile che i listini siano in attesa di questi dati. Sul listino principale, sul FTSE MIB, il titolo migliore è Impregilo, che si mantiene stabile al comando con un progresso di oltre 4 punti percentuali. Bene anche Saipem, più 1,72%, Ferragamo guadagna l'1,32%, in apertura era il titolo migliore, ieri sono stati comunicati i dati del gruppo che nell'anno della quotazione in borsa ha ottenuto ricavi per oltre 1 miliardo, l'utile netto a 103 milioni di euro con un progresso di quasi il 70%, Tods guadagna un punto percentuale, in fondo al listino invece ritroviamo Monte dei Paschi di Siena che c'è del 2,7%, oggi è il giorno dello sciopero del personale dell'istituto che protesta contro le decisioni dei vertici per tagliare i costi. Giù anche la Popolare dell'Emilia Romagna, meno 2,39%, UbiBanca c'è del 2,24%, STM il 2,13%, il Banco Popolare 2 punti percentuali. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,30,74 sul dollaro e qui chiudiamo la nostra parentesi dedicata ai mercati. Prima però di arrivare al nostro tema, quello di oggi, che appunto è quello relativo ai libretti al portatore, io voglio subito dirvi che cosa succederà lunedì, perché lunedì sarà una giornata molto importante per la radio, per Salva Danaio in generale, perché qui al Sole 24 Ore è stato organizzato un convegno che durerà tutta la giornata sul tema delle pensioni, perché in questi anni, in questi mesi si sono susseguite delle modifiche ed è evidentemente è importante fare luce per capire un po' come va calcolata la propria pensione. Allora il convegno si svolgerà qui nella sede del Sole 24 Ore, sarà presente il presidente dell'INPS Antonio Mastrapasqua, a seguire poi nel pomeriggio le relazioni degli esperti. Sono stati esauriti tutti i posti in sala, però è possibile seguire i lavori in streaming sul sito www.ilsole24ore.com e l'evento viene inoltre trasmesso anche sul canale 816 di Sky Rete Economy. I quesiti dei lettori saranno raccolti fino alle ore 18 di lunedì 19 marzo su www.ilsole24ore.com/tuttopensioni e le risposte degli esperti saranno a loro volta pubblicate dal giorno seguente sul Sole 24 Ore. I lettori potranno porre quesiti agli esperti anche per telefono. Il numero telefonico dedicato è 02 30 30 00 30 e sarà attivo dalle 9.30 alle 16.30 di lunedì. Ovviamente Salvadanaio non poteva non essere dedicato a questo tema. Il presidente dell'INPS Mastrapasqua sarà ospite di Deborah Rosciani e anche noi con IGR seguiremo con un Radio Day il tema delle pensioni per tutta la giornata. A questo punto ci possiamo dedicare a quello che è invece il tema di oggi, che vi ricordo ancora è quello dei libretti al portatore, un tetto a 1000 euro entro la fine di marzo, la nostra scheda. L'abbassamento del tetto massimo per le transazioni in contanti è uno dei cambiamenti della manovra Salva Italia che ha maggiormente inciso sulle abitudini quotidiane dei cittadini. Basti pensare ai tanti pensionati che hanno dovuto aprire un conto o iniziare a usare una carta prepagata per vedersi accreditate le mensilità. L'utilizzo scorretto del contante, il cui tetto massimo è stato portato a 1000 euro, l'ultimo abbassamento a quota 2500 risaliva solo a quest'estate, è sanzionato già dal 1 febbraio scorso. Con la fine del mese di marzo scadrà anche il secondo termine fissato dalla manovra di dicembre, che riguarda il limite per l'apertura e il trasferimento dei libretti bancari e postali al portatore, strumenti molto popolari tra gli italiani. I libretti con saldo pari o superiore a 1000 euro, il vero limite massimo consentito è quindi 999,99, dovranno essere regolarizzati entro il prossimo 31 marzo. Entro tale data il saldo dovrà essere portato al di sotto di questa soglia, oppure si dovrà estinguere il libretto. In alternativa, gli interessati potranno trasformare i libretti al portatore in libretti nominativi. La regola generale non è difficile da ricordare, ma è importante, per evitare sanzioni, informarsi sulla sua corretta applicazione nei singoli casi. Ad esempio, regalare a un familiare più di un libretto al portatore, che singolarmente rispettano il tetto, ma che sommati lo superano, costituisce comunque un comportamento scorretto, se la consegna non avviene con il tramite di una banca o delle poste. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Allora, io partirei dal dottor Anastasi. Mi veniva in mente una battutaccia stamattina, perché comunque il limite al 31 marzo entra in vigore dal 1 aprile, potrebbe sembrare uno scherzo, e invece uno scherzo non è questa modifica. Allora io volevo chiederle, dottor Anastasi, si è già mosso qualcosa? Cioè, la risposta dei cittadini in merito a questo, che è un cambiamento importante per chi ha utilizzato questo strumento per i titoli più diversi, per le motivazioni più diverse, si stanno già mettendo in regola? Se ne è messa in regola una buona parte, ne mancano ancora tanti? Allora, certamente questa è una iniziativa che richiede ai singoli clienti di venire in ufficio postale per regolarizzare questa posizione. In questo periodo dobbiamo dire che da dicembre, data di decorrenza della nuova norma, effettivamente abbiamo notato una regolarizzazione di queste posizioni con solitamente l'apertura di nuovi libretti nominativi, quindi non soggetti alla soglia dei 1000 euro. Ce ne sono ancora molti di questi libretti, ovviamente e questa è un'iniziativa che costringe i clienti a tornare anche successivamente magari a operazioni di riconduzione del saldo a fronte delle soglie che precedentemente erano state definite. Ricordiamo che questa non è una norma nuova, è un aggiornamento della soglia che ha portato nel corso del tempo, prima da 15.000 a 5.000 e infine a 2.500 euro questo limite. Quindi sono clienti che magari hanno già regolarizzato in passato la propria posizione rispetto a queste soglie e ora vedono necessario un nuovo intervento sul saldo di questi libretti. Quindi ce ne sono ancora molti, però vediamo che le informative che appunto come Poste Italiane stiamo dando. Ecco, come vi siete mossi da questo punto di vista? Perché ovviamente avrete dovuto comunicare. Assolutamente sì, in tutti i nostri uffici postali abbiamo esposto delle locandine, degli avvisi che appunto informano i clienti di questo obbligo a partire dal 31 di marzo, in maniera tale da rendere diciamo esplicativo questo messaggio, mettendo a disposizione anche ovviamente tutti i consigli e le indicazioni dei nostri operatori, in maniera tale da suggerire quelle che sono le modalità operative più opportune, più idonee per o la riconduzione del saldo di questi libretti sotto i 1000 euro oppure l'estinzione dei libretti stessi e il reimpiego delle somme in altre forme di risparmio o in caso eventualmente le somme siano diciamo consistenti anche ed eventualmente ci siano ovviamente le caratteristiche diciamo necessarie dal punto di vista del profilo del cliente di investimento. Allora, io volevo chiedere proprio al dottor Forte a questo punto, che cosa può fare colui che è in possesso di un libretto al portatore che ovviamente va oltre questa soglia? A questo punto quali sono le possibilità che si trova di fronte per ottemperare ovviamente all'obbligo di portare la soglia sotto i 1000 euro? Come è stato già anticipato, abbiamo più di una possibilità. Sì. La prima chiaramente consiste nell'estinzione del libretto con l'incasso, la monetizzazione della relativa somma. Questa è diciamo, l'operazione forse più immediata, più semplice. L'altra possibilità è effettuare un prelevamento parziale per la quota che eccede i 999,99 euro, in modo che la somma giacente entro il 31 marzo sul libretto medesimo non superi questa soglia ridotta per effetto appunto del decreto, il cosiddetto decreto salvataggio. L'altra ipotesi, come pure abbiamo anticipato, è la trasformazione del libretto al portatore libretto nominativo. Noi dobbiamo partire da un presupposto che l'abbassamento della soglia con riferimento a questi libretti si spiega perché il legislatore è come se considerasse il libretto al portatore di fatto, anche se non lo è, denaro contante, perché la somma giacente sul libretto circola mediante la semplice consegna del libretto, quindi di fatto è come se io stessi consegnando denaro contante, tant'è che poi, anche questo anticipato nella scheda in maniera molto puntuale, il livello di attenzione deve essere posto su due tipologie di operazioni, da una parte quando vado a trasferire i libretti, perché è come se trasferissi denaro contante, quindi devo fare attenzione alla nuova soglia, l'altro aspetto invece è colui che non trasferisce il libretto ma ha nel suo cassetto uno o più libretti al portatore e quindi deve intervenire appunto attraverso una di quelle soluzioni che ho indicato. Sì, a questo punto cominciamo ad introdurre il tema degli intermediari, però poi ci dovremo fermare per dare la linea alla regia. Dottor Forte, ancora una volta da lei, poi tornerò anche al dottor Anastasi come parte ovviamente in causa. Ci sono diversi intermediari, ci sono le poste, ci sono le banche. Uno come si deve relazionare con questi intermediari? Quando è necessario ad esempio andare per forza da uno piuttosto che da un altro? Si deve relazionare nel senso che l'intermediario deve intervenire nel momento in cui io effettuo un trasferimento appunto di un libretto ad un'altra persona per importi superiori alla soglia di 999,99 euro. Ad esempio ho due libretti che hanno un saldo, uno di 600, uno di 400, quindi qui non ho problemi di ridurre la somma giacente perché già entro il 31 marzo osservo questa previsione della norma, però le trasferisco mediante semplice consegna. Essendo il valore complessivo oggetto di trasferimento superiore alla soglia di 999,99 euro, devo procedere al trasferimento solo attraverso un intermediario, cioè alla presenza di un funzionario della banca o dell'ufficio postale o di qualsiasi banca o di qualsiasi ufficio postale, non necessariamente della banca che ha emesso sostanzialmente il libretto. In modo che io che effettuo il trasferimento posso ottenere un'attestazione che il trasferimento di quel libretto a tizio è stato effettuato con l'intervento di una banca. Questa attestazione mi dà la prova appunto che il trasferimento, come ho appena anticipato, è avvenuto attraverso l'ausilio e il supporto di uno di questi intermediari, e quindi l'operazione, come si suol dire, è canalizzata, è controllata, è monitorata e quindi osserva le disposizioni in materia di antiriciclaggio. Le 12:35 minuti, torniamo a parlare dei libretti al portatore, della soglia 1000 euro che dovrà essere rispettata entro il 31 marzo. Giovanni da Brescia, buongiorno, benvenuto. Sì, buongiorno. Ci dica. Avevo un caso un po' complicato, dunque cercherò di essere breve. Io ho un appartamento dato in locazione ed è stato dato una cauzione tramite libretto al portatore, sì, il cui importo adesso supera i 1000 euro. Sì. Ci sono stati dei problemi col conduttore, il quale ha denunciato falsamente lo smarrimento del libretto per poi ottenerne una copia sostanzialmente, sì, una ripetizione del titolo. A seguito di questo è stata presentata denuncia per calunnia, passata in giudicato, la signora è stata condannata. Ho richiesto, siccome sono tuttora in possesso del libretto in originale, ho richiesto alle Poste di pagarmelo a questo punto. La Posta, hanno provato a sbloccarlo, ma la centrale di Roma, a seguito di questa denuncia che è stata presentata, non è mai stata poi chiesta la duplicazione naturalmente, e non riesce a sbloccarlo, e questo va avanti da circa 6-7 mesi. Adesso si avvicina anche questa scadenza per la conversione del libretto. Mi chiedo, io ho già intimato alle Poste italiane di sbloccare, sì, questo libretto, se no procederò giudizialmente anche contro di loro nel caso in cui dovessi incorrere la sanzione prevista dal legislatore. Ecco, perché questo è poi l'aspetto che in questo caso viene un po' fuori. Dottor Anastasi, questo signore rischia anche di poi vedersi come addossata la sanzione, che in questo caso non sono poi così leggere, anzi sono piuttosto importanti le sanzioni in questo caso. Sì, la sanzione in questo caso è una sanzione che arriva fino anche al 40% del valore del libretto. Sì. In questo caso, se il cliente ha comunicato a Poste Italiane i dati identificativi del cessionario, da questo punto di vista il cliente dovrebbe essere in linea con quello che è il disposto normativo di appunto trasparenza del trasferimento, sì, avvenuto appunto tra lui e il cessionario. Sì. Il libretto in questo caso, il libretto è bloccato perché con un saldo superiore a 1000 euro. Sì. In questo caso l'unica operatività che è concessa sul libretto è appunto o la riconduzione del saldo oppure l'estinzione stessa del libretto. Sì. Allora, Afrim da Prato, che apre tutto un altro capitolo che adesso cercheremo anche in questo caso di spiegare. Buongiorno. Sì, buongiorno. Ci dica. Ti ringrazio tanto e auguri per la trasmissione. Ci dica tutto. La mia domanda è questa, che io ho la mia mamma che prende una fine sociale di circa 600 euro. Sì. E c'ha anche un libretto postale, diciamo. Sì. Quel libretto è il mio, di mia mamma, è il mio. C'ho anche io della mia delegata, Ma siccome io quei soldi non lo prendo, diciamo, speso, vado a prendere ogni 10 mesi un anno. Anche il mio caso fa parte di questa cosa, e che cosa deve fare? Signor Afrimi, io voglio capire se questo libretto è al portatore o è un libretto nominativo. Allora, il libretto è in nome della mia mamma e il mio, tutti e due. Quindi, tutti e due abbiamo finito di ritirare o di fare operazioni in posta. Allora, vediamo un po' se il dottor Forte ci può aiutare. In questo caso comunque c'è un nome, quindi forse non rientra nei casi di cui stiamo parlando. Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Qui il libretto è perfettamente tracciato perché cointestato riporta appunto il nome della mamma e del radioascoltatore, quindi un libretto nominativo. Non abbiamo alcun problema, non c'è necessità di ridurre il saldo oltre la soglia, perché come appunto spiegava anche il dottor Anastasi, aveva avevano Poste Italiane monitorato una tendenza alla crescita dei libretti dal portatore, dal numero dei libretti non più al portatore a nominativi. Quindi in questo caso si sa chiaramente chi ha quella titolarità del denaro giacente sul libretto, quindi i problemi non ce ne sono, il radioascoltatore già a posto non deve fare alcunché. Invece volevo girare al dottor Anastasi una domanda che ci arriva attraverso Facebook. Il signor Andrea dice: con i libretti Io Cresco dedicati ai minori che cosa si deve fare? Libretti dedicati ai minori sono strettamente nominativi, quindi non rientrano nella fattispecie del libretto al portatore di cui appunto stiamo parlando. Quindi possiamo accomunarli al caso precedente, anche ovviamente se si tratta di due strumenti diversi, però nel caso in cui figuri un nome non rientrano nella casistica di cui stiamo parlando. Invece caso diverso è quello del signor Igino da Roma, che ci ha scritto al 349-238-6666. Ho aperto un libretto di risparmio per il nostro bambino 4 anni fa e ovviamente l'importo è superiore ai 1.000 euro. Sono a rischio? Immagino proprio di sì, dottor Anastasi. Qui bisognerebbe capire appunto se è un libretto dedicato a un minore o è un'altra forma di libretto, sì, magari ordinario, o comunque direi che in entrambe le casistiche dovrebbero essere libretti appunto nominativi. E quindi non assoggettabili alle norme sul saldo. Fabrizio da Bergamo, buongiorno, benvenuto. Pronto? Sì, noi la sentiamo molto bene. Allora, buongiorno, senta, io a me è venuto un dubbio sulla risposta che ha dato prima, no? Nel senso che io 4 anni fa ho aperto un libretto al portatore ordinario per questioni di affitto, in cui ho dovuto versare la cauzione. Questo libretto qui però è intestato anche a me, quindi volevo capire se è un libretto, diciamo, che rientra nella casistica dei 1.000 euro oppure no. Dottor Forte, ci può aiutare? Sicuramente. Allora, sembrerebbe essere semplicemente se il libretto riporta il nominativo, è appunto un libretto nominativo. Attenzione, dire che è un libretto al portatore non significa che la banca non conosca chi ha acceso il libretto. Cioè, la banca emittente il libretto è a conoscenza del nominativo che ha acceso il libretto. La banca emittente il libretto potrebbe non essere a conoscenza del nuovo prenditore, del nuovo possessore del libretto nell'ipotesi di consegna materiale. Per tale ragione il soggetto cedente, sia che trasferisca un libretto sotto i 1.000 euro, sia che trasferisca un libretto sopra i 1.000 euro, è tenuto a comunicare alla banca emittente il libretto originario quali sono le generalità del nuovo possessore, del nuovo prenditore. Quindi bisogna fare appunto attenzione nella casistica. Se però, come anticipavo, il libretto riporta chiaramente il nominativo, questo è tale, quindi nessun problema. Allora, dottor Forte, volevo girare a lei alcuni sms che sono arrivati, perché c'è stata una piccola sollevazione sul discorso del riciclaggio. Alcuni ci scrivono che questa comunque è una norma vessatoria nei confronti dei poveri, e quindi ad esempio c'è un ascoltatore che vuol sapere chi è che ha deciso che la soglia sia 999,999 invece che 1001, e altri che ci chiedono insomma se è vero poi nella sostanza che questo strumento si presta a nascondere somme allo Stato, e che quindi non è vero che è solo nelle mani di persone anziane oppure chi ha fatto contratti di locazione in cui è molto frequente avere poi il libretto al portatore. Risponde alla realtà il fatto che comunque questo tipo di intervento da parte del governo risponde proprio a una logica per contrastare in ogni modo l'evasione? Diciamo che il discorso è sicuramente complicato, perché come le ricordava la misura è in chiave antiriciclaggio e in chiave antievasione. Certo. Tant'è che il DL Salvitalia ha previsto anche un obbligo di comunicazione e non al Ministero, non solo al Ministero dell'Economia e Finanze in caso di infrazioni, ma anche all'Agenzia delle Entrate, sia pure per il tramite della Guardia di Finanza. È chiaro che se abbassiamo la soglia, e quindi ora siamo arrivati praticamente ai 999 euro, riduciamo di molto la possibilità di evadere il fisco e riciclare denaro. È chiaro che con una soglia così bassa di fatto soggiacciono all'adempimento, alle restrizioni, un numero sicuramente maggiore rispetto al passato di persone che non nulla hanno a che fare con l'evasione e l'antiriciclaggio. Se noi però pensiamo che il limite originariamente era molto alto, sì, certo, 12.500 euro, quando il limite appunto effettivamente era così elevato, era agevole utilizzare questi strumenti per finalità, diciamo, non proprio lecite. Quindi come tutti i casi vanno di mezzo persone che nulla hanno a che fare con queste manovre rispetto a qualcuno che non è molto onesto. Le 12:48 minuti, l'ultima parte di Salva Danaio da passare insieme, e allora volevo chiedere al dottor Anastasi, perché mi sembra un punto importante, quando io mi trovo a estinguere, magari decido che voglio estinguere il mio libretto e l'ho aperto alla posta, devo recarmi alla posta, cioè magari non negli altri casi, però nel caso di estinzione è necessario recarsi laddove il libretto è stato aperto, giusto? È corretto. Ecco, mi conferma questa cosa, che magari non sempre può essere così semplice. Allora, in realtà bisogna precisare che l'operazione anche di estinzione del libretto può avvenire in qualsiasi ufficio postale sul territorio nazionale. Quindi non è necessario recarsi nell'ufficio postale dove è stato aperto originariamente il libretto. Sì. Quindi c'è la disponibilità di tutti gli uffici postali, tutta la rete di 14.000 uffici postali italiani per chiudere il libretto. L'estinzione è un'operazione che richiede qualche giorno, tre giorni in particolare, per l'accredito di tutti gli interessi, le competenze di riferimento del libretto. Sì. Quindi in tre giorni il libretto è estinto e le somme sono disponibili al cliente. Ecco, dottor Anastasi, però io devo in qualche modo dimostrare come quel libretto, perché magari non sono stata io ad aprire quel libretto, come è poi arrivato nelle mie mani? Allora, il possesso del titolo è già la prova evidente appunto della portabilità libretto stesso. Quindi non ci sono altre prove, evidenze che occorre fornire. In quel momento Poste Italiane recepisce, identifica il soggetto che è portatore in quel momento del libretto e lo censisce all'interno dei propri archivi. Perfetto. Allora, Miro dalla provincia di Vicenza, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno. Ci dica. Ecco, io volevo solo magari un attimo smentire, anche se capisco che poi sanno gli esperti che hanno in linea, dicendo che per esempio c'è un libretto che vendono nelle banche, soprattutto le popolari, che si chiama ancora 44 gatti. Sì. Questo libretto è stato fatto per tutti al portatore, per cui i genitori si devono preoccupare, proprio perché, siccome prima si diceva, i libretti dei bambini sono sempre nominativi. Parlavamo però dei prodotti della posta, non per quel che riguarda le banche. Adesso comunque cerchiamo di capire con il dottor Forte, in questo caso per esempio, che cosa si fa, perché se è la banca ad aver dato luogo ad uno strumento che in questo caso ha un nome preciso, che comunque è un libretto al portatore per i più piccoli, anche qui dovrà intervenire una modifica, immagino, dottor Forte. Scusi, non ho ben capito. Il signor Miro ci dice che evidentemente qualche anno fa ha sottoscritto uno strumento in banca che è un libretto destinato ai più piccoli, che ha un nome preciso, e che però comunque è un libretto al portatore, anche se è uno strumento destinato ai più piccoli. Immagino che anche in questo caso bisognerà ottemperare alle richieste che sono quelle della nuova norma. Assolutamente, se il libretto è al portatore come se fosse denaro contante, e la conseguenza è che il saldo deve essere abbassato, il libretto deve essere estinto. Anzi, colgo l'occasione per fare una precisazione a proposito delle sanzioni, qualora io non... Certo, e anche questo è un punto molto importante che volevo proprio chiederle, perché dicevamo poco fa che sono sanzioni di una certa importanza. Certo, allora io devo distinguere, perché qui le violazioni possono essere diverse. Prima ipotesi, quindi primo comportamento non conforme alla legge, io trasferisco ad un altro soggetto un libretto al portatore, come nel caso specifico, il cui valore complessivo del trasferimento supera la soglia, e in questa ipotesi la sanzione irrogabile è dall'1 al 40%, perché io in realtà è come se trasferissi denaro contante oltre la soglia. Sì. Con un minimo di 3.000 euro e 15.000 euro di sanzioni per importi superiori a 50.000 euro, con la possibilità poi di avvalersi di meccanismi che riducono, in caso di contestazione, queste sanzioni. Altra sanzione diversa è applicabile nell'ipotesi in cui io non effettuo il trasferimento del libretto per valori superiori ai 999,99 euro, ma semplicemente non estinguo il libretto, non prelevo la somma in modo da ridurre il saldo fino a 999,99 euro, o non trasformo il libretto dal portatore in nominativo entro la scadenza del 31 marzo. Sì. In questo caso è applicabile una sanzione minore, ma comunque elevata, dal 10 al 20% del saldo del libretto, con un minimo di 3.000 euro, e se il saldo è superiore a 50.000 euro, le sanzioni minime e massime sono aumentate del 50%. Unica novità introdotta sempre dal decreto Salva Italia è che se il saldo del libretto al portatore è inferiore a 3.000 euro, la sanzione non è dal 10 al 20% ma con un minimo di 3.000, ma è esattamente pari al saldo del libretto stesso. Quindi supponiamo che il saldo sia 1.500 euro, se non lo estinguo, non prelevo, la sanzione è esattamente pari a 1.500 euro. E il problema è risolto alla radice in quel caso. Allora, l'ultimo ascoltatore a cui possiamo dare la linea, Antonio da Napoli, buongiorno, benvenuto, le chiedo di essere brevissimo. Brevissimo. Sento, sto trasferendo tramite il mio conto corrente sul libretto nominativo determinate cifre. Volevo sapere se c'era un limite. Per il versamento. Allora, dottor Forte, ancora a lei, ma proprio anche a lei una battuta molto breve. Perché il libretto non può avere un saldo, se tratta ovviamente il libretto al portatore, non può avere un saldo, un'aggiascenza superiore ai 1.000. Però, se ho capito bene, il signor Antonio ha un libretto nominativo. Mi sembra che abbia parlato di un libretto nominativo, quindi forse in questo caso voleva sapere se ci fosse un limite al versamento. Assolutamente, se il libretto è nominativo non c'è problema, nel senso che non esiste alcun limite alla giacenza, perlomeno per quanto riguarda la normativa antiriciclaggio, e quindi può tranquillamente effettuare tutti i versamenti necessari. Benissimo, il tempo a nostra disposizione anche per oggi è terminato. Io ringrazio il dottor Massimiliano Anastasi, responsabile funzione antiriciclaggio nell'ambito di Banco Posta Compliance. Grazie per essere intervenuto, e grazie anche al dottor Nicola Forte, consulente tributario a Roma ed esperto per Il Sole 24 Ore. Grazie ai nostri ospiti, grazie a voi che ci avete ascoltato. A tutti voi l'augurio di un buon weekend.